Mi sono persa qualcosa del palinsesto nuovo di Radio 24. Vorresti dire che io Mieli non lo sentirei più praticamente, perché all'intervento alle 8:15 con te e io alle 8:15 sono già con le gambe sotto la scrivania. Beh, però salutatemelo tanto. Eccoci, caro Paolo Mieli, buongiorno, buongiorno, hai sentito l'ascoltatrice, c'è sempre il podcast, adesso non ci sente più, non glielo posso dire, c'è sempre il podcast per risentirci, caro Paolo. E poi possiamo farle avere una licenza, sì? Per sentire con, sì, l'auricolare a un telefonino e in via del tutto, questa è una causa eccezionale, certo, io la difenderei, ovvio. E quindi fra le 8:15, le 8:30, 8:35... lei può dire questo. Di allora, ascolta Paolo, può dire questo: il futuro presidente della Repubblica mi ha detto che posso ascoltarlo in diretta tutte le mattine alle 8:15. E là tutti si fermano, perché no, sappiamo tutti. Credo che... anch'io, credo anch'io che sai fermare, anche perché le farei avere una carta scritta di autorizzazione, quindi certo, che in processo, in caso di processo, Quirinale. Penso. Sì, è stato futuro Quirinale, non Quirinale. Al futuro Quirinale. Allora, caro Paolo, buongiorno. Io vorrei iniziare con te parlando di politica, perché oggi, come si diceva prima in rassegna stampa, sono tornati a scatenarsi i retroscenisti sul futuro del governo, sul futuro di Giuseppe Conte e soprattutto sulle tensioni che hanno attraversato ieri il Movimento 5 Stelle. Con questa vicenda, devo dirti la verità, curiosa e di difficile lettura, lo abbiamo raccontato prima, il fatto che 50 deputati del Movimento 5 Stelle hanno dato vita ad un emendamento con il quale si vuole cancellare la norma che prevede la possibilità per il Presidente del Consiglio, un po' complessa però è così, di prorogare i vertici dei servizi segreti contenuto nel decreto Covid. Il governo se l'è presa e ha detto: a questo punto sul decreto mettiamo la fiducia. E questi grillini non ci stanno, però è una fronda che c'è, Paolo, È una fronda che c'è, molti giornali dicono che dietro questa fronda ci sia addirittura la mano di Di Maio, che continua a essere, diciamo, il copadrone, comunque avere una posizione preminente nel Movimento 5 Stelle. E tu hai riassunto la vicenda alla perfezione: agli inizi di agosto, alla chetichella, dentro un decreto che parlava del Covid, della proroga dei poteri del Presidente del Consiglio in materia di Covid, hanno infilato una norma, come tu hai appena detto, per prorogare, per insomma decidere lui autonomamente sui servizi segreti. Sembrava una cosa un po' stravagante, però, che potesse andare in quel modo, se non che si sono svegliati 50, sono tantissimi, parlamentari dei 5 Stelle che hanno detto: no, noi non ci stiamo, questa la vogliamo rimettere in discussione. E a quel punto si poteva benissimo rimettere in discussione, ma la cosa è talmente importante che il governo ha deciso di mettere la fiducia su questa norma, dice, no, in modo da eliminare questa intromissione dei 50 pentastellati. Che significa? Significa, detto in modo molto semplice, che quella norma è più importante di quello che c'era apparso. Cioè, per Conte è fondamentale prorogare, tenere gli uomini dei servizi segreti che evidentemente, di cui evidentemente lui si fida. E in Italia fidarsi dei servizi segreti per chi è a capo di un governo è una cosa molto importante. Guarda, mi ha colpito che un giornale, La Verità, quello di Maurizio Belpietro, abbia messo la notizia di quello di cui stiamo parlando insieme a un'altra notizia nella stessa pagina, che la rivista Chi ha pizzicato Rocco Casalino, cioè il consigliori del Presidente del Consiglio, che si è rifidanzato con quel cubano, ve lo ricordate quel cubano che era stato ludopatico, che era stato pizzicato a giocare dei soldi in eccesso su scommesse online o insomma su giochi di borsa, tentativi di eccetera. Sì, giochi di borsa, tentativi di guadagnare. Si era aperto un riflettore su questa vicenda. Lui aveva lasciato il fidanzato cubano, ha detto basta, ha tradito la mia fiducia, non siamo più insieme. Si era addirittura fatto fotografare mentre baciava un altro signore, un altro ragazzo. Sì. E oggi chi lo ripropone invece tra le braccia del cubano? Ho qua allora, il numero di chi, se ti interessa, Paolo. Ce l'ho qua, te lo faccio pervenire. Il fidanzato José Carlos Alvarez. Lo sapevo che tu tenevi fingi di leggere il Corriere della Sera, il Sole 24 Ore, La Stampa, però il tuo primo giornale, Chi, Diva e Donna. Ah certo, sicuramente, certo, ovvio, ma, naturalmente. Ma sai che ti dico, invece di fare il moralista, ti dico che fai bene, perché attraverso quelle fotografie innocenti, fatte da fotografi, però passano dei... messaggi subliminali molto importanti, fanno capire uno che aveva detto di fare una cosa invece quella cosa non l'ha fatta, fanno capire strane vacanze in strani posti di alcuni personaggi pubblici. E io non voglio dire che c'è dietro lo zampino dei servizi segreti, però è possibile così, che così, controllare queste notizie possa significare qualcosa. E quindi, ripeto, essere a capo dei servizi segreti significa una cosa molto importante, e quindi ecco perché quei 50 pentastellati hanno voluto mettere in discussione questa prerogativa fino a quasi far tremare le mura del governo. Chi mai immaginava che un governo potesse cadere per una norma così marginale, di cui bisogna leggere bene sui giornali per capirci qualcosa, e tu l'hai fatto in maniera eccellente, ma insomma... Beh, strana storia, seguiamola. Qualche tensione c'è, tensione. Allora, un ascoltatore mi dice... Facciamo così poi. Prego, sì. Prego. No, dico, un ascoltatore mi dice: riviste molto attendibili e culturalmente elevate, degne del suo intelletto. Sì, in effetti. Chi, Diva e Donna, è quella storia là. E si collega in parte questa vicenda, Paolo, ne parlavamo prima, a tutti questi retroscena che circolano sulle regionali, su come finisce, sulla sorte del segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, il quale è... considerato il principale sponsor di Giuseppe Conte a questo punto, che da tempo si dice non ha il pieno sostegno del Movimento 5 Stelle. Poi, sai Paolo, siamo sempre nell'ambito dei retroscena, quindi va tutto preso con le pinze, però di questa ipotesi parla esplicitamente il Fatto Quotidiano, che non è un giornale lontano dal Movimento 5 Stelle, quindi forse qualcosa c'è, che dici? Beh, direi di sì, perché... In effetti, dietro il taglio dei parlamentari, che è l'oggetto del referendum, o chi guiderà questa o quella regione, c'è una partita più importante e chiara. Cioè, se veramente le regionali finissero 4-2 per il centrodestra, o addirittura 5-1, perché adesso cominciano a venire fuori dei sondaggi che dicono che anche la Toscana non è così certa come sembrava a favore del centrosinistra, e se in più, diciamo, il referendum sul taglio dei parlamentari partiva per sondaggi unanimi 80% a favore dei sì, 20% a favore dei no, se questa cifra fosse contraddetta da un'altra dove si dà più spazio ai no, io direi che è escluso che i no possano vincere, ma insomma, se i no marciano verso il 30-35%, dovesse accadere, nessun sondaggio ancora lo dice, ecco, a quel punto un risultato sfavorevole a centrosinistra in termini per le regionali e ribilanciato a favore del no, questo potrebbe far tremare la maggioranza assieme alle foto di cui parlavamo prima che stanno sui giornali, che tu leggi spesso e volentieri. Certo, ovviamente. 800 24 00 24, se volete intervenire la vostra, dire la vostra o fare una domanda al futuro capo dello Stato. Che altro ti ha colpito, Paolo, oggi? Beh, mi ha colpito innanzitutto un bellissimo articolo di Ezio Mauro sulla Repubblica, che sottolinea come il popolo Novax, questo popolo che adesso si oppone alle mascherine, sia un popolo tendente a destra, e lo vede sotto il profilo mondiale, ma siccome sappiamo che da noi, come già accaduto in Germania, come già accaduto in Francia, alla fine di questa settimana ci sarà una manifestazione di questo popolo, anche questo io darei un'attenzione particolare. Cioè, lui sostiene che questo mescolarsi insieme di superstiziosi, nemici della scienza, è meno innocente di quello che può sembrare. Non sono quelle trovate alla Vittorio Sgarbi, o non sono solo quelle trovate alla Vittorio Sgarbi o alla Flavio Briatore, ma c'è una composizione probabilmente mondiale a questo punto, che può darci delle sorprese, anche perché è ovvio che queste tematiche Novax, noi le chiamiamo Novax, altri le chiamano negazionisti, sì, chiamano come ti pare, insomma, sì, certo, i nemici delle norme di precauzione contro il Covid, sono molto, insomma, fanno molti proseliti tra i più giovani, e quindi lì c'è dietro anche una disputa sul mercato del voto giovanile. Io lo dico in modo brutale, ma di questo si tratta. Sono suggestioni che fra i più giovani stanno diventando molto popolari, di dire basta, continuiamo come nell'estate della Movida, freghiamocene, al massimo i nonni correranno qualche pericolo, però noi vogliamo andare avanti così. Sì. Questo è un messaggio forte, sì, non sottovalutiamolo, perché è più forte di quello che può apparire. A proposito di politica, ci scrive un ascoltatore: Conte è un mediatore fantastico, lo avremo al governo, in un ruolo di paragoverno per i prossimi 20 anni, riesce a raggirare chiunque, la mette giù un po' cattiva. Domanda per te da un ascoltatore: le sardine come stanno? Chiede Giovanni. Paolo, ci sei? Ma mi è sparito. È sparito Paolo Mieli. Vediamo un attimo se riusciamo a recuperarlo. Sulle sardine ha fatto calare un rispettoso silenzio. Vediamo se lo ripeschiamo. Abbiamo qualche problema tecnico, ragazzi. Il primo collegamento al microfono, tra l'altro, è di Paolo Mieli, che i primi 2 giorni ce l'abbiamo avuto al telefono. Vediamo se lo ripeschiamo. E vabbè. Per le sardine, care ascoltatrici e cari ascoltatori, dovrete aspettare domani, pausa. Abbiamo recuperato Paolo Mieli per un saluto anche giustamente agli ascoltatori, ma anche per la doverosa risposta a Giovanni su come stanno le sardine. Tu che ne sei un esegeta, Paolo, ci sei? Le sardine stanno benissimo, sono schierate per il no al referendum, faranno manifestazioni per il no, io anche sono per il no, ma siccome mi sono giurato che mai approfitterò dei microfoni di questa radio per fare propaganda, mi limito a segnalare questo gemellaggio Mieli-Sardina. Certo, no, ovvio. Caro Paolo, ci sentiamo domani, stessa ora, 8:10. Buona giornata. Dovremmo avere in linea Pierpaolo Sileri, il vice ministro alla salute, con noi. Sileri, buongiorno. Eccoci qua. Sappiamo che poi ha un impegno in aula e quindi a breve la terremo poco. E però ci sono un po' di domande che abbiamo da farle. La prima domanda che le voglio fare è quella che troviamo su qualche giornale oggi, che parte dal grande tema di fine settembre, inizio ottobre, ossia la l'influenza, l'arrivo dell'influenza, che preoccupa tutti quanti per una serie di motivi, ovviamente, a partire dal fatto che i sintomi possono essere confusi con quelli di Covid e quindi dobbiamo essere in grado di capire bene che cosa succede. Si dice che ci sarà una spinta per la campagna vaccinale contro l'influenza, lo avete già detto abbastanza chiaramente, avete detto tutti gli italiani il più possibile dovranno vaccinarsi, e però leggiamo oggi dai giornali che manca almeno 1,5 milioni di dosi ed è difficile forse raggiungere la copertura che vorreste raggiungere. Allora, diciamo due cose innanzitutto, siamo ai primi di settembre e quindi vi è tempo per diciamo provvedere a ulteriori dosi, le regioni sono già attrezzate tutte per questo. La campagna di vaccinazione chiaramente inizierà un po' in anticipo rispetto agli anni precedenti, non dimentichiamoci anche un'altra cosa, che le procedure che noi stiamo attuando di difesa contro il coronavirus, e quindi la distanza, la mascherina e il lavaggio delle mani, sono le stesse identiche regole che valgono anche per la comune influenza. Quindi è vero che siamo preoccupati della circolazione del virus e quindi della sovrapposizione di sintomi che possono essere fuorvianti, ed è per questo che qualche giorno fa ho detto dobbiamo avere una capacità di fuoco anche con i tamponi molto più alta nei prossimi mesi, non che oggi servano 300 o 400 mila tamponi, ma potrebbe esserci diciamo un picco di necessità di tamponi magari quando vi sarà il picco influenzale, e quindi siamo diciamo sulla strada giusta e siamo pronti anche per questo. È chiaro che dovremo stimolare quante più persone a fare la vaccinazione, prevalentemente poi coloro che hanno delle fragilità, ad esempio gli anziani, cioè coloro che sono più a rischio nella stagione invernale. Sì. Non teme che ci sia un problema, appunto, Sileri, di forniture, perché è presumibile che quest'anno molti vadano a vaccinarsi e vada a vaccinarsi anche quella parte di popolazione che normalmente non lo fa, ossia quella che non viene considerata a rischio e che però quest'anno dice vabbè, però se mi becco l'influenza mi tocca star fermo due settimane, tre settimane, finché non si capisce se è influenza o Covid-19, mentre invece faccio il vaccino e mi tolgo il problema dalle scatole. Quindi questo potrebbe portare ad una richiesta molto forte, la pressione sui medici di base c'è già. Ha detto no, guarda, siamo pronti per questo. Ora è giustissimo e necessario secondo me fare il vaccino anti-influenzale soprattutto quest'anno, laddove sappiamo chiaramente vi è il rischio di una sovrapposizione di sintomi e quindi puoi escludere una delle due cose facendo il vaccino, però fondamentale sarà anche la diagnosi. Ma quindi siete pronti a comprare eventualmente nuove dosi di vaccino anti-influenzale? Siamo pronti a comprare nuove dosi di vaccino, certo. Ok, rispetto a quelle che avete già previsto. Lei consideri che purtroppo ogni anno l'adesione alla campagna vaccinale anti-influenzale è meno di quella che... meno del desiderio, a dire il vero, perché purtroppo anche e soprattutto negli anziani il numero di persone che diciamo si fanno vaccinare contro l'influenza in alcune aree è sempre inferiore alle necessità. C'è la possibilità, prima di parlare di tamponi, parliamo di sierologici, Sileri, dei test sierologici, c'è la possibilità di distribuirli ai medici di base, ci chiede un ascoltatore, quindi gliela faccio direttamente da un ascoltatore che immagino sia un medico di base, perché poi ne abbiamo molti che ci ascoltano. Sì, vi è la possibilità, sì, la risposta è semplice, sì. Sì, e verrà fatto? Beh, penso proprio di sì, ripeto, andando avanti avremo bisogno di una campagna di sorveglianza superiore a quella che abbiamo oggi. Siamo pronti e saremo ancora più pronti fra qualche settimana. Noi, vede, stiamo vincendo, ovviamente servirà tempo perché si vincerà completamente quando o il virus scomparirà da solo o vi sarà il vaccino, mediante la prevenzione, lavaggio delle mani, mascherina, distanza di sicurezza e la sorveglianza. Questo che lei mi ha appena chiesto e che il medico ovviamente di medicina generale ha chiesto è la parte della sorveglianza, che è la parte secondo me più importante nella convivenza con il virus, perché le prime tre regole ormai le abbiamo imparate, sono la nostra routine, la nostra quotidianità. La sorveglianza rappresenta il fulcro principale per la convivenza col virus in attesa di un vaccino o diciamo in attesa della sua scomparsa. Il sistema è in grado di arrivare a quella cifra che viene immaginata e che viene discussa in queste ore di 300.000-400.000 tamponi al giorno? Facciamo chiarezza su questo, perché quando si è detto 300.000 tamponi, si è pensato a dover fare 300.000 tamponi ogni singolo giorno. Serve fare dei tamponi con giudizio, cioè i tamponi laddove servono, i tamponi laddove va fatto un contact tracing quanto più adeguato possibile. Ci saranno dei picchi di 300.000 o anche 400.000, sì, siamo pronti, ma saranno dei picchi, non sarà una costante di 300.000 tamponi al giorno da qui, non so, ad aprile, giugno del prossimo anno, quando sarà disponibile il vaccino. Si tratterà di avere sotto pressione il sistema, magari in alcuni periodi, diciamo in autunno, in inverno. Immagini il picco dell'influenza, ripeto, secondo me vi sarà un picco inferiore rispetto allo scorso anno, perché le stesse, diciamo, difese che abbiamo oggi per il coronavirus valgono anche per le, diciamo, gli altri virus influenzali. Però lei immagini il mese di gennaio, quando leggendo i giornali negli scorsi anni c'erano pronto soccorso intasati per patologia legata all'influenza, bene, in quelle settimane sarà necessario, come diagnosi differenziale e per maggior sorveglianza, arrivare a dei picchi di tamponi che possono essere anche 300-400 mila. 300.000-400.000, però appunto, come ci diceva lei, sarebbero dei picchi. La possibilità di utilizzare, di aprire completamente i laboratori privati, c'è Sileri o è demandata alle regioni? Io sono d'accordo all'apertura dei laboratori privati, chiaramente il pubblico viene sempre prima, ma se una struttura privata è in grado di garantire diciamo la stessa cifra del pubblico un tampone, e una persona desidera andarselo a fare, o magari aziende o quant'altro desidera andarselo a fare per i propri dipendenti, diciamo nel settore privato, non vedo quale problema, purché poi vi sia condivisione dei dati. Ecco, la cosa importante è che vi sia condivisione dei dati e trasmissione dei dati a livello centrale. Questa è un'altra cosa molto importante. Diciamo, dobbiamo tenere tutto sotto controllo in questo momento, perché la situazione è molto dinamica, la situazione può cambiare, la situazione varierà nelle prossime settimane e abbiamo necessità di monitorare. Il monitoraggio ci fa fare dei passi in avanti con la massima precauzione, ma se non controlliamo esattamente ciò che accade non possiamo conoscere il trend. Vedete, in Francia aumentano 7.000 casi magari in un giorno. Ecco, noi abbiamo bisogno di monitorare costantemente la situazione per procedere ad aggiustamenti laddove necessario. Sì, oggi il Sole 24 Ore parla di, l'avrà visto, di questa cifra di 30 milioni di tamponi per gestire questa stagione in arrivo della quale lei ci parlava e della quale abbiamo parlato fino adesso. È la cifra che immaginate? È difficile dare delle cifre, le dico la verità, dipende anche quale sarà l'andamento. Vede, noi siamo partiti con le riaperture graduali da maggio. C'era chi diceva ci sarà un aumento dei casi nel mese di giugno, servirà questo, e poi invece giugno è andato bene, luglio è andato bene, abbiamo incominciato ora ad avere un incremento dei casi, tuttavia è tutto sotto controllo in questo momento. Ricordiamo, ci sono 1.000 casi al giorno, peraltro casi che diciamo non sono soggetti sintomatici per la maggioranza dei casi. È un numero che sì, può essere vicino alla realtà, però la verità è quello che le dicevo poc'anzi. Cercare di monitorare, solo monitorando si può prevedere nell'immediato ciò che può accadere, quindi sì. Dobbiamo solo essere pronti. Il numero che io le ho detto di triplicare o anche quadruplicare è verosimile che servirà, e dobbiamo essere pronti quando servirà. L'ultima domanda che le voglio fare prima di lasciarla, Sileri, ha a che fare con una vicenda che oggi troviamo su qualche giornale, viene messa in primo piano in particolare dal Messaggero, perché è una vicenda che arriva dalla Regione Lazio, dal sistema di sorveglianza e di monitoraggio della Regione Lazio, perché lei di sorveglianza e di monitoraggio ci parlava poco fa, ed è la vicenda delle persone tornate dalla Sardegna. Alcune, anzi addirittura 450 circa, si indica sul quotidiano e si indica in questo rapporto realizzato al servizio di sorveglianza della Regione Lazio, arrivate con sintomi dalla Sardegna e fatte partire dalla Sardegna con sintomi. Questo è un discreto, cioè se funziona così è un discreto problema. Allora, chiaramente ci saranno delle verifiche in merito a questo e prenderemo più informazioni, però è chiaro che è una situazione che deve essere valutata. Se dovesse essere così, è evidente che qualche falla c'è stata e va corretta per i prossimi viaggi. Però ecco, bisogna anche vedere quelli che sono i diciamo i tipi di sintomi, perché vede, ma molte volte può capitare che uno in maniera retrospettiva si accorge di aver avuto dei sintomi dopo che è stata fatta la diagnosi. Cioè, se lei avesse chiesto a me mesi fa quando ho preso il coronavirus. Come sta a proposito, Sileri? Bene, molto bene. Molto bene, però vedi, se io dovessi chiedere per esempio a lei, ma lei qualche giorno fa magari ha avuto un po' di mal di gola, un po' di raffreddore, un qualcosa, cioè ognuno di noi non si ricorda dei sintomi lievi o qualcosa di trascurabile, magari lo associa, non so, all'aria condizionata forte o a uno sbalzo di temperatura, mentre invece guarda quel graffio alla gola altro non era che, diciamo, una forma lievissima e diciamo pauce sintomatica del coronavirus, senza creare allarmismi. Sì. Potendo che poi quando è una diagnosi, tornando indietro, mi ricordo che, quindi attenzione anche magari a quello che è stato scritto. Senta, l'assessore D'Amato paragona addirittura la vicenda della Costa Smeralda a Atalanta-Valencia, la partita che viene considerata la partita zero, il cluster della Costa Smeralda. Lei come la vede questa cosa? Guardi, io dico che la Regione Lazio, l'assessore D'Amato, ha fatto un lavoro eccellente. Considerando anche il numero di rientri che vi sono stati, sicuramente, diciamo, in Sardegna vi è stato un problema, soprattutto in alcuni locali, ma diciamoci la verità, non c'è un caso Sardegna, il virus è arrivato in Sardegna, vi sono stati dei luoghi di trasmissione, il virus si è diffuso da dove magari le regole sono state meno rispettate o proprio non rispettate e purtroppo poi è rientrato diciamo nelle regioni e le persone entrando nell'appartenenza l'hanno portato con sé. Però devo dire che il lavoro che è stato fatto dalla Regione Lazio è stato davvero eccellente e un modello anche per altri. Grazie e buon lavoro Pierpaolo Sileri, Vice Ministro alla Salute, grazie per essere stato con noi, buona giornata. Sentiamo un paio di ascoltatori su argomenti vari, anche Covid naturalmente. Paolo dalla provincia di Monza e Brianza, buongiorno. Buongiorno a voi. Prego, rapido. Mi riferisco a quei 50 del 5 Stelle che sono un po' opposti al prolungamento della conferma dei servizi segreti a quel punto. Sì. Ma è una cosa che va un po' a confermare una mia teoria, ma lascio un quesito più che altro, riguardo a questa situazione del Covid, che è un'iniziativa che ormai interessa il globo e che è un modo per poter, sotto l'aspetto della paura, del timore, eccetera, controllare un po' tutto i movimenti e saltare l'aspetto politico ed entrare invece in casa delle multinazionali e quelle case lei un po', Paolo, per controllare lei è un po' un teorico del complotto, cioè sostiene, no, dice che Covid è un modo per controllarci tutti. Economico, che è ancora meglio delle guerre e quant'altro, è più efficace. Sempre sotto però non è un negazionista, non è un negazionista lei. No, guarda, io ho un dubbio. E siccome tutti vanno in quella linea, tutte le cose che succedono mi confermano questo, non ultimo quella riunione che hanno fatto, manifestazione in Germania, dove ha partecipato anche il nipote di Kennedy, che ha fatto un discorso un po' molto delirante, chiaro, un po' delirante anche a dire il vero. Prego? Un po' delirante, diciamoci la verità. Delirante se si vuole far venire meno. Io è allarmante se fosse vero, ma molto interessante, è una teoria che non fa una piega. Vabbè. Però il 5G cosa ne pensa? Io lo metterei dappertutto, guardi, grazie Paolo dalla provincia di Monza e Brianza, no, lo dico proprio francamente. Emilio da Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, domanda così secca. Se siamo così bravi a tutelarci dal Covid rispettando le varie procedure, perché non dovremmo parimenti essere salvi anche dal vaccino e quindi dal virus influenzale classico? Non è un po' Emilio, guardi, è quello che ci diceva Sileri prima, diceva le precauzioni che stiamo prendendo per Covid serviranno anche a ridurre la trasmissione dell'influenza, cioè il fatto che tu ti metta la mascherina quando entri nei negozi, vai nel supermercato, eccetera, eccetera, è una cosa che ti serve anche a questo e quindi è presumibile che ci sia che il virus influenzale sia meno forte a questo punto. Emanuele da Bologna, buongiorno. Buongiorno, salve. Io stavo sentendo insomma l'intervento di Sileri e volevo raccontare una cosa di vita vissuta. Io sono rientrato dalla Sardegna la settimana scorsa, martedì, ho fatto il tampone volontario, tra l'altro gratuito, a Bologna, per tutti quelli che rientravano da paesi, tra virgolette, a rischio. C'erano diversi paesi stranieri, tra cui la Sardegna. Paese straniero, magari c'è ancora qualcuno che ci spera, Emanuele, però no, io gli no, indipendentisti sardi, però diciamo, siamo ancora in Italia, siamo. Prego, e niente, non ho ancora il risultato del tampone, l'ho fatto giovedì scorso, quindi Se questi sono i tempi, se questi sono i tempi, dice lei, non, sì, cioè, non so. Il problema è che io non ho sintomi, mia moglie è uguale, sì. Però visti tutti gli asintomatici e se ok aumentiamo il numero dei tamponi. Ma Emanuele, nel frattempo lei cosa sta facendo? Gira o è chiuso in casa in attesa del tampone? No, io cerco di mantenere le distanze il più possibile, però comunque devo andare a lavorare. Tocca lavorare. Sì. Questo è. Emanuele, grazie anche a lei. Saluto Matteo Bassetti, buongiorno e benvenuto. Professor buongiorno. Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che è una delle persone che in questo periodo ha tentato di placare quello che immagino lei ritenga, Bassetti, una sorta di allarmismo da parte del governo e anche da parte di alcuni suoi colleghi, no? Ma sì, non è questione di placare, è questione di guardare i numeri e essere realisti, perché questi numeri di luglio e di agosto non sono neanche minimamente paragonabili ai numeri di marzo e aprile, quindi abbiamo una situazione decisamente più tranquilla, con una riduzione significativa della mortalità, dei ricoveri gravi e con una positività sul totale dei tamponi fatti che è praticamente stabile da un mese a questa parte, tra l'1-1,5%, quindi nessuno vuole ovviamente banalizzare una situazione che è stata grave, ma mi pare che vorrei riportare i numeri al puro realismo, senza voler essere più o meno allarmisti. Si tratta di guardare i numeri e sapere che il nostro sistema sanitario oggi è decisamente più pronto e maturo di quanto non lo fosse 6 mesi fa. E su questo non c'è dubbio. Bassetti, io ho letto qualcosa nelle scorse ore in merito alla sua posizione sul tema dei tamponi. Abbiamo ospitato poco fa il viceministro Sileri, il quale dice la questione dei 300.000 tamponi al giorno, dice quello sarà il picco, non sarà un numero costante, nei momenti più difficili arriveremo a un picco di 300.000-400.000 tamponi al giorno. Da quel che ho capito, lei è un po' perplesso sul fatto di aumentare così tanto il numero di tamponi? Ma io sono perplesso per la semplice ragione che se si tratta di aumentare il numero di tamponi per gli asintomatici rischiamo di paralizzare l'Italia. Se si tratta di avere un'offerta potenziale per il prossimo autunno-inverno, quando ci saranno molti bambini, molti adulti, molti anziani che avranno sintomi respiratori, questo è un bene. Non bisogna confondere le due cose: avere la possibilità di offrire il tampone a tutti quelli che sono i potenziali sintomatici o poco sintomatici in epoca autunno-inverno è molto importante, però attenzione a voler tracciare tutti gli asintomatici, perché su questo c'è peraltro un documento che non è di Bassetti o di Silleri, ma il CDC, che vuol dire rimane comunque oggi il CDC, il Center for Disease Control di Atlanta, sì, l'ente più prestigioso al mondo per il controllo delle malattie infettive, che sconsiglia l'utilizzo del tampone sugli asintomatici e sui contatti di caso. Quindi evidentemente perché rischi, a parte che l'asintomatico può non trasmettere, questo mi pare abbastanza evidente, non tutti gli asintomatici trasmettono allo stesso modo, e poi il rischio è che se noi andiamo a fare 300.000 tamponi al giorno, sono 60 milioni di tamponi in 6 mesi, noi paralizziamo il paese, perché nell'attesa, ha visto il radioascoltatore precedente, sì, cosa faccio? Nel mentre che io ti ho fatto il tampone, tu sei un contatto, sei un asintomatico, rimani in qualche modo ingessato, e poi se troviamo il 3-4% della popolazione che è positiva, cosa facciamo? Però, se un'attività commerciale, se una scuola. Però mi permette, Bassetti, è un po' un ragionamento da tre scimmiette. Cioè, non vedo, non sento, non parlo, non lo so, e quindi pazienza, cioè andiamo avanti così. Guardi, le dico, qui è questione di decidere che cosa si vuole fare. Ognuno, evidentemente, la medicina, come lei sa, non è una scienza esatta, ognuno ha il proprio pensiero. Io credo che sia giusto fare il tracciamento da parte delle persone che viaggiano in alcuni paesi dove l'epidemia è non controllata, e mi pare che questo purtroppo non lo abbiamo fatto, perché in Italia tra il mese di giugno e il mese di luglio sono entrate moltissime persone da aree ad alto rischio, non sono mai state tamponate, non sono mai state quarantenate, parliamo della Serbia, parliamo dell'Albania, parliamo della Romania, parliamo della Bulgaria, parliamo del Sud America, nonostante fossero state proclamate come da controllarsi, in realtà non sono state controllate, basta guardare i focolai di giugno e di luglio. Quindi su quelli nessun dubbio che debbano essere in qualche modo controllati. Sugli altri è una questione, come dire, di punti di vista. Le ripeto, io non le ho dato il punto di vista di Bassetti. È quello, sì, quello lei dice, è il punto di vista del CD, cioè, è il punto di vista del CD. Non è che sto dicendo, è come dire, è il punto di vista più alto che noi in questo momento abbiamo al mondo. Non stiamo parlando dell'OMS, che può essere criticabile o meno, come qualcuno ha fatto. Stiamo parlando del CDC di Atlanta, cioè quello che in qualche modo noi infettivologi, noi epidemiologi, noi igienisti ci siamo sempre rivolti come il l'ente massimo al mondo per decidere o no che cosa fare. Quindi mi pare che anche loro abbiano la stessa idea. Sta montando un po', Bassetti, in questo periodo, questa storia, perché poi faranno una manifestazione, come sappiamo, è dei negazionisti del Covid. Facciamo una cosa, sentiamo Ivano dalla provincia di Lecco e poi vorrei parlarne un attimo anche con lei. Ivano, buongiorno. Sì, buongiorno a lei, grazie di farmi intervenire. Ma io sono un medico rianimatore, uno di quei tanti, insomma, che ha lavorato in questo periodo. Io personalmente ho un'idea abbastanza così, come dire, che vorrei sostenere. Cerchiamo di rimanere sul pezzo per quanto riguarda i negazionisti, i Novax, eccetera, e distinguiamo nettamente quello che è la possibile anche volontà di rifiutare un vaccino, è una terapia. Io come medico propongo una terapia e il paziente può accettarla. La mascherina non è la stessa cosa, la mascherina è un presidio. Ora, al di là del fatto che i Novax hanno, come dire, un retro, anzi... voglio dire che va contro un po' quella che è la scienza ormai confermata. Beh, e quant'altro. Certo, ma la mascherina è come diventare negazionisti sulla cintura di sicurezza, su un casco, è un presidio. Questo è fino ad oggi l'unico non è, dato è un di buon fatto. Punto. Ivano, lo sai che questo è un buon punto. Tra l'altro, invece sul vaccino, Bassetti, tra l'altro lei è stato sotto attacco perché ha detto che bisogna vaccinarsi. Sì, ho detto quello che dovrebbero dire tutti, ma ahimè, purtroppo, molti di quelli che oggi propagandano la mascherina sono gli stessi che poi dall'altra parte, con l'altra mano, attaccano i vaccini, per cui è molto pericoloso quello che sta succedendo nel nostro paese anche a livello governativo, per cui ne vedremo delle belle, secondo me. In che senso a livello governativo? Nel senso che ci sono delle posizioni chiaramente espresse da parte di alcuni esponenti politici che a questo momento sono al governo contro i vaccini, non lo dico io, che c'è all'interno di alcuni movimenti politici. Hanno fatto breccia negli anni passati movimenti Novax, Freevax o esitanti, per cui io sono curioso di vedere che cosa succederà adesso nel prossimo inverno e ancora peggio quando avremo il vaccino per il Covid. Ci auguriamo tutti che arriverà presto, come si comporterà una certa parte politica. Visto che hanno ospitato negli anni passati con forza movimenti Novax o antivax. Parla di 5 Stelle, in sostanza. È evidente, sì. Manifestazioni, io attacchi più grossi li sto ricevendo da una certa parte, per cui non ho detto niente di strano, semplicemente detto che bisognerebbe vaccinare i bambini che vanno a scuola, che bisognerebbe forse controllare gli insegnanti che tanto hanno paura del Covid, ma qual è la loro copertura nei confronti, per esempio, del morbillo, del meningococco, di altre malattie che possono circolare a scuola. Io ho semplicemente detto di vaccinare molto di più di quanto abbiamo vaccinato nel passato per aiutare i medici a fare la diagnosi differenziale e per evitare che il virus dell'influenza colpisca insieme al Covid, che vorrebbe dire una miscela esplosiva. Ho detto delle cose che in altri paesi sono normalità, da noi purtroppo non è normalità. Vede, la mascherina, io concordo col collega, è molto importante, ma non dobbiamo fare l'errore di pensare che sia l'unico modo per difendersi dal Covid, perché questo è un errore clamoroso commesso nel nostro paese. Abbiamo propagandato la mascherina come se io mi metto la mascherina e vado per strada, o vado in un ristorante, o vado a scuola, e tutto il resto non è importante perché ho la mascherina sul naso e sulla bocca. Noi dobbiamo dire che la mascherina è importante, ma altrettanto importante il distanziamento, forse ancora di più della mascherina, sì. Il lavaggio delle mani, la vaccinazione, lo stare a casa se io ho 37. Tutto un complesso di norme, di norme di prevenzione. Perché qua, sì. Se no, continuiamo a dire solo ed esclusivamente abbiamo fatto le battaglie solo per la mascherina, che ha portato evidentemente a un alleggerimento di tutti gli altri comportamenti che sono ugualmente importanti. Quindi sì. Evitiamo di di fare la reclame, la propaganda esclusivamente della mascherina, perché è sbagliato. Che è importante, però non è la sola cosa, esatto. Naturalmente. Grazie Matteo Bassetti, grazie per essere stato con noi, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, GR24, noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30, Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in redazione, Margherita Ina, Francesco Ciaraffo, i nostri autori. A domani, ciao.